Radio Wombat. Radio Wombat 8 Hertz. Benvenuti ascoltatori di Radio Wombat, siete su 8 Hertz, come vi narra ormai il jingle che da anni promuove la trasmissione. E questa settimana continuiamo con le sessioni della rotella, ormai siamo al volume 9, diciamo, sono già state fatte 9 rotelle, la rotella è ispirata appunto alle rotelline dei synth. Per chi non conoscesse la rotella, per chi ha iniziato ad ascoltare ora la radio, lo spiego abbastanza velocemente. Sono queste sessioni all'interno del programma 8 Hertz, che è molto, diciamo, malleabile e molto vario, sempre solo a tema musicale. Sono delle sezioni di improvvisazione, diciamo, su sperimentazione libera e anonima, fondamentalmente curate da due persone sempre diverse in regia, che con pochissime attrezzature, di solito elettroniche o con qualche effetto o con un solo effetto, riescono a far uscire qualcosa, speriamo anche di bello, ma comunque di interessante. Ovviamente non è una vera e propria sperimentazione, non ha un valore, insomma, scientifico, di apparato scientifico, e quindi, insomma, un po' per il piacere di farle, anche per il piacere di far ascoltare cosa si può fare anche con pochissimi mezzi, diciamo. Il fatto che sia anonima può anche stimolare maggiormente a soluzioni più ardue, visto che se tutto va male non si sa chi l'ha fatta, insomma, quindi è anche interessante per quello, e appunto libera, si sa, perché puoi fare un po' come ti pare, quanto ti pare e dove ti pare. A questo giro, vedendo un po' la strumentazione che è stata portata, ci sono cose che presumo siano un po' più vicine all'elettroacustica, ovvero da suoni naturali modificati riesci a costruire qualcosa, insomma, partendo da basi acustiche o anche dai field recording, che sono le registrazioni sul campo, cioè voglio registrare il vento, voglio registrare le foglie, voglio registrare, insomma, tutto questo vuole registrare qualcosa da poi amplificare e processare. Curiosissimo per questa nuova sessione, spero che vi piaccia, lasciate anche qualche commento se vi va, tipo sono due palle oppure bellissimo. Noi ci sentiamo la settimana prossima, intanto a prestissimo, grazie di sentire queste pesantate, viva Radio Wombat e anche il programma 8 Hertz, a presto a tutti, ciao. Thank you. Thank you. Thank you.